Lo avevo cercato per 3 settimane, il grande gorilla delle montagne. Pensavo che ormai non l'avrei trovato mai più. Ma io ho l'impressione che qualcuno della misteriosa comunità dei gorilla mi stia osservando. E all'improvviso che mi trovo davanti al capo del branco. È a pochi passi da me. Sembra che mandi dei baci. È un mostro grazioso che luccica. Nella regione del Kausi, nel cuore dell'Africa equatoriale. Ma anche più vicino a noi è ancora possibile qualche volta ascoltare le voci intatte della natura.